Stai ascoltando Radio Forte. Questo è Centocelle Avenger. Centocelle! Questa non è una prova, questo è rock and roll! Siete su Radio Forte, questo è Centocelle Avengers, puntata numero 11, la prima di questo nuovo annone. Buon 2021, Iron Man! Buon anno, ma mi sembra un po' tardino. Sì, è vero, adorabile device puntualizzatore di cose inutili e pedanti. Eccala! Parli di pedanti e arriva lei. Oggi è il 21 gennaio. Buon anno anche a te, cara Alexa. Dicevamo, ci piace cominciare questo anno non bisesto, non funesto, con quell'ingenuo ottimismo da nuovo inizio, tipico degli anni 60, per esempio. Cosa? No, dico l'incoscienza, la speranza, l'ingenuità. Non capisco. Tipica degli anni 60. Non capisco. In breve, aiutami a dire, ci piace cominciare con gli anni 60. Incredibile. Perché? Perché c'è bisogno di finto benessere. Finto benessere? Sì, come il mio di adesso, ma fatto meglio. C'ho una playlist. Tu, negli anni 60, non eri neanche nato. Ecco perché si prestano proprio bene. Cosa succede quando parli di qualcosa che non hai vissuto? Cosa? Idealizzi, rielabori. No, che te stai muto e lasci parlare la musica. Come dice un nostro amico, le chiacchiere stanno a zero. Questo è per tutti quelli che non sanno se possono uscire oggi, ma soprattutto dove andare. Nowhere to run, Martha and the Vandellas. Run, run, gear, run, I gear, run, yeah, gear, run, run, run, I gear, run. Senti che atmosfera diversa? No. Che leggerezza, che spensieratezza. Non è meglio cominciarlo così l'anno? Sei dozzinale. Chi? Io? Ma no dai Iron Man, non te butta giù. Tu ti riferisci certamente alla scelta dozzinale di rendere te, un supereroe Marvel, il nuovo testimonial della scuola di musica, vero? Perché questo è dozzinale. Non capisco. Ma io lo so che non intendevi denigrare la mia selezione anni 60, vero? Mister Originalone. Che poi casualmente, lo sai chi mi è nato nel 63? Chi? A proposito dei favolosi dozzinali anni 60? Non lo sai? L'idea di un uomo che si ficca dentro un'armatura di ferro e salva il mondo dai Viet Cong. Ti dice niente? Homo de Ferro. Il primo Iron Man di Stan Lee. Mo lo senti, Good Morning Vietnam, eh? Vietnam. Tu eri un supereroe di propaganda, amico mio. È una fatica rispenderti a sinistra. Non capisco. Hai capito, un dottor accattato? Ingrato che non sei altro, ti sto mostrando le tue origini. Se non era per me, a quest'ora stavi a Capitol Hill con le corna in testa. Come quell'altro scemo di Thor. Era Thor, giusto? Me stavi un cincinello all'opposizione, Iron. Ma io? Mo va bene tutto, però ti rendi conto che stai più impicciato di Capitan America? Ho detto tutto? Sei cattivo. Ma passiamo ad altro. Per fortuna questa fattoria ospita diversi animali che collaborano alla nostra trasmissione. Animali? Sì, era una metafora, non vi è piaciuta? No. Perché non leggete? Comunque volevo chiamare in causa e con l'occasione fare gli auguri anche al nostro piccolo amico drone di R100. Auguri a te, vecchia ferraia. Sono sicuro che hai dei contenuti succosi col nuovo anno. Ma... ricordiamo che il nostro piccolo amico ha il compito di spiare le prove della scuola di musica, in particolare dei quattro gruppi che quest'anno compongono la classe di musica d'insieme, e cioè Alexa, Sumeri, Fenici, Assiri e Babilonesi. Ebbene sì. Pare che nessuno abbia voluto abbandonare il nome originale, mesopotamico. Che dici? Stavo cercando di dirtelo. Cosa? Nella memoria di DR100 non sono presenti prove musicali. Si è collegato all'unico evento disponibile. E cioè? L'assemblea di redazione. Il brainstorming. Ricordi come è andata? Sì, ricordo vagamente. Allora giovani, idee per l'anno nuovo? Ok, silenzio. Avevo pensato di fare una bella puntata gioviale con musica anni 60, una playlist presa bene, Tiè, senti che robetta, senti che ritmo. Baby, please don't go. Cioè, questo è oro. Selezione dozzinale proprio. Ma no, ma dai, ma Poi tutta robaccia americana. Invece di parlare della British Invasion. E poi c'è una chicca. Scimmiottamo quel tipo, quello dei Good Morning Vietnam, ma voi ricordate il film? Avete per caso quello lì con quel tizio che ha fatto quel film che è uscito l'anno scorso? Robbie Williams si chiamava, no? Quello è il cantante. Gli fregamo un po' di battute. Oh, quello faceva ride. E svoltammo minutaggio. Tutti criticoni, eh? Se no, regà, una bella puntata tutta effetti e spiegazioni sulla stereofonia. Suoni che si spostano a destra e a sinistra. Quel brano 8D, quello che girava. Era una bufala quell'audio. E poi la radio è mono. No, vabbè. Facciamo Good Morning Centocelle, vi piace? No, fa schifo. Mamma mia, non sta bene niente. Non ho visto aprire bocca a quello là. Digli subito rabarbaro. Rabarbaro. Attento a te, eh. E adesso basta frescacce e aprire le orecchie. Sentiamo. Ma good morning, centocelle di chi? Ma siete il nuovo salario? Ma va. Oh, e basta con sta storia però, eh. L'avevamo già parlato, mi pare. Il prezzo che si paga per parlare della mia discendenza cinese o americana in maniera negativa è che io mi prendo la vostra testa. Come è successo a questo stronzo? Altre obiezioni? Fanno meno 2 gradi e metti la musica da surfisti? Chi ci azzecca? A me sta cosa dei Good Morning Vietnam fa un po' cagare. C'è imitazione dell'imitazione di un cronista di guerra americano? È il 68? Ma manco di quello vuoi parlare? Solo le cazzate proprio. Regà, cerchiamo di essere costruttivi però, Signor Monocchio, dica qualcosa pure lei, che ne so. Io non voglio dire proprio niente, mi avete assunto come tecnico del suono e sono 2 settimane che faccio cavi arrabogliati. Guarda qua, guarda che casino, mannaggia. Sì, vabbè, mi cavi. Però alla faccia della promozione, alla faccia. Vabbè, della io dico promozione. Che c'è poco tempo e devo chiudere. Tanto si sa che ci fai farsi brainstorming. E poi decidi come vuoi tu. Ma, amici, sei un maledetto autartico. L'ho sempre detto che il vostro contributo essenziale è la musica. Andate a suonare. Sì, sì, vabbè, ciao. Dai, non fate così. Iron Man, Dio, tu. Non capisco. Beh, mi pare un team affiatato, no? Beh, sembra che tu abbia problemi di condivisione. E chi non ne ha? Fosse l'unico che c'ho poi. Vabbè. Se non avete altro da aggiungere per incoraggiarmi, io metterei un pezzo. Sono da poco passate le 5 su Radio Forte e quindi questa è 5 O'Clock World dei Vox. Capito? 5 O'Clock... Complimenti. L'hai pensata tutta la notte? Oh, basta, mi avete fatto deprime. Grazie, eh. Tacci vostri. E io che ve mantengo. Bentornati su Radio Forte, 100 Celle Avengers, prima puntata dell'anno 2021. Ci siamo fatti gli auguri e vabbè. Sì. Abbiamo lanciato i buoni propositi con l'ottimismo, gli anni 60, te lo ricordi? Me l'avete affossati e vabbè. Che cos'altro si fa all'inizio dell'anno da bravi rapaci del contenuto radiofonico e non solo? Che cosa? Si fa una ricerchina di ciò che dal 1 gennaio di quest'anno diventa patrimonio dell'umanità. Alex, hai fatto ricerchina? Prova a dire no. Ho fatto come mi hai chiesto. Bene, questa allegra nuova rubrica, oggi e solo oggi, si chiama I morti del 50. Sigla. 3 agosto 1950. Muore Ture Edman. E chi è? Ginnasta svedese. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Chi è il prossimo? 22 aprile 1950. Muore Karl Kaltenbach. Ma chi è? Tiratore di fune, di scobolo e giavellottista tedesco. Sì, sì, vabbè. Notevole. Commenta il fatto del giorno, Iron Man. Oggi vi parlerò di... No, senti, non avete capito niente di quello che ho detto, niente. Cosa c'è? Musicisti, di che ci occupiamo noi? Di musica. Musicisti morti nel 50, sulla cui opera da oggi, anzi da 20 giorni, non incombe più la bieca mano della SIAE e del diritto d'autore in generale. Sono passati 70 anni e diventano patrimonio dell'umanità, capite? Mo che ce famo con questi? Che patrimonio è? che mo da oggi si potrà tranquillamente fare il tiro alla Karl Kaltenbach senza incorrere in causa di plagio? Probabilmente. Avrei questo, Pablo Chavez Aguilar, compositore presbitero peruviano. Sembra buono. Meglio. Se no? Altrimenti? 23 dicembre 1950. Muore Vincenzo Tommasini, compositore italiano. Il grande. Oh, e dillo subito, mi stavo a preoccupare. Abbiamo qualcosa? Riproduci traccia? Vincenzo Tommasini su Radio Forte. Musica liberata. Vincenzo Tommasini. Ma abbiamo sempre messo quello che ci pareva. Per una volta volevo far finta di essere una radio vera che si confronta con la realtà ostile, resa cinica dalle spietate leggi del mercato. O sapete quanto ci costava il vecchio Vincenzo Tommasini col vecchio conio? Ma Radio Forte è libera. Autogestita. Tu dici, per fortuna siamo altro, e meno male. Però mi faceva ridere pensare a questa caccia al contenuto sbloccato. Per esempio, la Molisana. Durante il brainstorming a porte chiuse che ha portato i creativi a partorire le abissine dal sapore littorio. L'Italia festeggia il colonialismo, eccetera eccetera. Per guarnire come una ciliegina questa già grande campagna, a un certo punto se ne esce uno dalle retrovie dei creativi e dice: e poi direttore, ci avremmo una bella poesia de Trilussa da metterci, che mo scattano i diritti e so sordi che risparmiamo, eh? E ci mettono Trilussa, capito? Quando mamma porta gli spaghetti siamo tutti d'accordo nel programma, capito? È un attimo che te superano a destra, ci stanno attenti, e va a finire che i fasci se fregano Trilussa. Sì, che poi sti cazzi, mo le Trilussa in particolare, se lo possono pure tenere, ma Frodo, Gandalf, tutto il fantasy. Se li sono già presi. E non va bene. Tocca stare attenti, Arzilli e mo nel 2043, a 70 anni dalla morte di Tolkien, ne riparliamo. Sei un idiota. Intanto Vincenzo... Tommasini, quello, cominciamo a dire che era uno di noi. Noi chi? Non ti preoccupa, intanto se lo compriamo. Ma chi è sto Toto? Sta zitta, chi lo conosce? Poi c'è il mercato di riparazione. Mo vabbè, magari anche basta con Vincenzo. Ci ho provato a regge botta Iron Man, ma qui si rischia che il ritmo scende troppo. Chiudiamo coi morti del 50, torniamo ai 60. Tra poco la rubrica dei solisti di musica forte, ma intanto ascoltiamo Liar Liar dei Castaways. Cielo Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Rieccoci come promesso con la ormai consueta rubrica dedicata ai solisti. Sigla! Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo. Un'altra storia. che bello ritrovarci qui ancora una volta a parlare dei solisti, Iron Man? Gli studenti della scuola che scelgono di lasciare la band. O di non entrarci proprio, eh? Se non sbaglio, Alexa, ti avevo chiesto di trovarmi una marcorda a tema 60s. Un allievo garzaggio mi ha fatto un pezzo anni 60, ce l'hai? Abbiamo Can't Hurry Love delle Supremes cantata da Mavi. Ottimo! Direi la prima buona notizia di oggi. Presenta pure, cara. Riproduco. Errore, ma... errore, 100 presenta celle a marcorde, errore 100 poi 100 a marcorde celle. Calma, il solito anno di registrazioni è andato perso, ti è rimasto un bug. Facciamo appello agli ascoltatori, chi si ritrovasse in possesso di registrazioni del saggio 2018 è pregato di inviarle al canale Telegram. Aiuto, dove sono? Grazie, per aiutare la nostra Alexa a superare il trauma. Nel frattempo, cosa possiamo ascoltare che non ti faccia crashare il sistema? 2019 T.I. De Sahara cantata da Francescone. Quella di Sting? Ma avevamo detto 60. Vabbè, io ci rinuncio. My sister and I have this wish before we die. And it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why. We need a shelter in sky. We have this strange obsession. You have the means in your possession. Shelter in sky, across the desert he will fly. Team the star with you. Team the star with you. Team the star. Libera. gestita, una voce indipendente e sempre originale. E se salta e non ti si riconnette più, puoi ascoltarla come podcast quando decidi tu. Tinde Sara, cantata dal nostro Francescone, un brano di Sting, illustre esempio di artista che lascia il gruppo. Maledetti device. Perché? Perché noi, sempre qui su Radio Forte, sempre 100 Celle Avengers, rubrica dei solisti, dovevamo fluidamente legarci agli anni 60, tema deciso tutti insieme a tavolino, e parlare di un altro grande solista uscito dal gruppo. Poi mi avete svalvolato sulla scaletta e tutto io devo fare. Can't buy me love. John Lennon, colui che disse addio ai Beatles. Ma che succede? Ma è andata via la corrente un'altra volta? Ma che è qua? Mamma mia, signor... Chi è? Bravo, bravo, molto bravo. Virgi, sei tu? Hai un'aria strana? Immagino tu sia soddisfatto del tuo lavoro, no? Che cosa non capisco? Quindi credi di aver preso il discorso in maniera adeguata? Vabbè, mo te c'hai le solite fisse tue dei Beatles e cose. Ora basta! Responsabile della tua mancanza di fede. Lasciami, ti prego, mi fai male. Senti un po', te. Mi hai fatto suonare Puzzle Bubble 13 ore consecutive. Mi hai fatto suonare gli stacchetti trap e gli stacchetti reggaeton. Ogni volta che ti rendi conto che non ho visto gli Avengers, me lo fai pesare. E poi. Mi hai fatto morire Aquaman alla prima puntata, oh! Ma quindi cosa hai in mente? Adesso si fa a modo mio e dei Beatles se ne parla come si deve. T'ho spaventato, ma tu non devi avere paura di me. L'importante è che te ne stai qui buono, buono. Ci ho già pensato io a scriverti quello che devi dire. Tieni, ecco. Ora lasciami andare avanti, eh. Alexa, riproduci sigla. Ok. E quindi su 100 Celle Avengers, grande richiesta, perché mi sembra che anche sul gruppo Telegram comunque ci fossero grandi richieste, giusto Alexa, giusto Iron Man. E quindi proprio spontaneamente mi sono reso conto che gli anni 60 non hanno senso se non parli di questi Beatles, ma chi meglio di me potrebbe farlo? Incredibilmente solo oggi, anzi no, scusa, volevo dire da oggi, con un'infinita serie di pillole di sapienza sui Beatles, parte la rubrica che si chiama, ma avevamo detto il nome, come si chiama questa rubrica? Non ho mica tempo per cose futili come dare il nome alla rubrica. Sì, ma ci serve un attimino per creare un po' una fidelizzazione, una cosa, lo vogliamo chiamare Love Lab. Fa schifo. Posso parlare? Vedo che il tempo scorre, quindi ti lascio la linea e dici comunque perché siamo qui. Nella cultura pop e nella controcultura degli anni 60, fondamentali furono i grandissimi Beatles, che con la loro unione e il loro scioglimento nel 1970 hanno segnato l'intero decennio. Come stavamo dicendo? No, tu dovevi parlare di John Lennon da solo, che era un contentino? Ma non hai ancora capito che i Beatles da soli non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quello che sono stati insieme? Ok. Il fatto è che dietro ogni componente c'era una personalità, frustrata spesso dall'importanza che avevano per il mondo intero e che li costringeva a collaborare annullandosi. Per capire la loro importanza, basti pensare che, se non avesse mai fondato i Beatles, oggi John Lennon sarebbe probabilmente un sereno vecchietto in riva al mare di Liverpool. Tu cosa avresti preferito? Eh? Ed è anche per questo che John li rinnegò esplicitamente con il brano God. Ecco perché, quando nel 95 uscirono Free as a Bird e Real Love, a tutti sembrò un po' strano. In pratica ci fu questa raccolta di sessions alternative e i tre superstiti colsero l'occasione per una reunion e si fecero consegnare dei brani inediti di John da Yoko Ono. E fu in uno di questi pezzi che Paul McCartney aggiunse del testo pieno di malinconia sul loro passato insieme, che per noi, probabilmente solo per noi, trasmette tanto ancora oggi. Comunque, piano e voce di John, basso e voce di Paul, Ringo alla batteria e George che finalmente poteva esprimersi col suono che preferiva. Il mondo aveva riavuto indietro i suoi Fab Four. Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Ma torniamo all'anno in cui tutto finì. Allora, i Beatles nel 69 avevano registrato brani per un bel paio di album. Li chiameremo brani buoni e brani cattivi. I brani cattivi erano stati registrati in un susseguirsi di eventi frustranti, tipo il GF Beatles, quello in cui si vedono Paul e George litigare, probabilmente qualcuno ne avrà sentito parlare. Maestra, io! Sì, questa la so! Sta per uscire un docufilm, riprese inedite! Di Peter Jackson, lo so, sono le sessioni originali proprio di quei pezzi. Vabbè, marendo. Ed è da quel tipo di clima che usciranno le sessioni video su cui poi i Beatles saranno costretti a rimaneggiare i pezzi. Sì, Per forza. E si udivano di brutto, Prendi Amy Mine, famosa per essere l'ultima registrazione della loro vita. Quando era stata presentata da George, a John fece proprio schifo. E così semplicemente si rifiutò di suonarla e si mise a ballare il valzer con Yoko Ono mentre gli altri la provavano. Matto! Sfortuna volle che il video del ballo fosse roba succosa e così tutti nello studio a registrarla davvero. Ecco, John manco si presentò. Alla fine ottennero un brano talmente breve che dovettero attaccarne un pezzo in post per farlo durare come una canzone normale. Il declino. A proposito, ti ricordi quel gruppo di cui ti parlai un po' di tempo fa, i Fake Four? No, che sedi? Ecco, avrei del musicale da inserire. Chi è sta gente? Oh! Sono qui per i provini. Mi è sembrato di sentire della polemica o sbaglio? Andiamo a montare il soppalco, subito! Alexa, riproduci traccia. Oh, Ecco, calcola che da qua in poi hanno preso un pezzo della canzone, più o meno a metà, e l'hanno attaccata sul finale. Ottimo lavoro proprio, insomma. Vabbè, non ci stavano a capire niente. La vera perla fu quando ricacciarono fuori un brano scritto da John a 15 anni e che pensavano di registrare dai tempi di Please Please Me. Diciamo che se vogliamo essere buoni e non considerarla soltanto un riempitivo, possiamo immaginarla come una sorta di parodia dei tempi che furono. Ecco. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Toltosi finalmente di mezzo Lady B, entrarono in gioco i brani Boni, o Abbey Road, come lo conosciamo tutti. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Se tu la bici no, non ce l'hai, col monopattino ti arrangerai. Questa peggio di quella tua canzone su carta bicesso. Mossi dalla consapevolezza della loro fine imminente, capirono che non era quello il modo di salutarsi. E così con Abbey Road ritroviamo la creatività, la profondità dei testi e le loro personalità, professionali e non, erano finalmente tornate un bene comune. L'ultimo brano di Abbey Road è un epitaffio emozionante, in cui per la prima volta ognuno di loro esegue un solo, come a sottolineare che dietro il gruppo erano in quattro, e tutti diversi. Insomma, noi dopo poco li avremmo ritrovati da soli, a vivere di luce riflessa, ma anche a far conoscere loro stessi al mondo. Ma questa è chiaramente un'altra storia. In quel momento, invece, John capì che c'era bisogno di intimità con i propri compagni, e stavolta chiese a Yoko di non seguirlo in studio. I tre eseguirono una meravigliosa coreografia di chitarre che si scambiavano ogni due battute, e tutto buona la prima. Questo era un saluto. Per quanto sia difficile riprendere la trasmissione dopo cotanta cultura, dopo aver toccato le vette del... Se n'è andata? Credo di sì. Ah, ok, dicevo, Riprendiamo senza indugio. Non pensare che quest'anno inizi privo di un momento di didattica. Sigla. Mi mancava. Bene, in linea col tema della puntata, a Suono Just Cares For You parliamo di esterofilia anni 60. Esterofilia. Se guardo te, io sono bugiata. Sì, Iron Man, esterofilia. Dal punto di vista musicale e non solo, anche nel mondo della fonia, che tanto ti interessa. Oh, non fa lo svogliato, eh? Da, dovevamo recuperare punti cultura qua, eh? Dicevo, anche per i fonici, la produzione musicale, scusa la parolaccia, anglosassone, ha avuto una certa influenza. Esiste proprio un mixaggio all'anglosassone, cioè gli va riconosciuto, che hanno trattato la voce al pari degli altri strumenti. In Italia, caro il mio Iron Man, cielo grigio su, foglie gialle giù, oltre ad avere italianizzato tutti i nomi, per essersi chiusi nella celebrazione del classico e della classicità, quando sono arrivati questi a bombardare la Movida di Roma, si colpiva la Movida, San Lorenzo e Trastevere. Eravamo pure sta pippa del paese del bel canto. Sai, la lirica, i tenori, tutto normale. Ma il concetto di band, già che lo chiamavamo complesso, non è che era così scontato. Stavano i cantantoni e ci sono continuati a essere, ci sono ancora. Il mixaggio all'italiana c'è ancora. E che cos'è? È quell'operazione che fa il fonico dopo che ha finito di fare un bel mix equilibrato con tutti gli strumenti, allorquando arriva il produttore e dice: non sento bene la voce di Gino, abbassami la band, dai. Capito? La band è complementare, è una cosa che capire, abbassi, cioè il cantante sei di B sopra tutto il resto. Questo è il mixaggio all'italiana. Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy band. Dal punto di vista musicale è stato un fiorire di cover, delle più impensabili. Chi è? Chi siete? Ma che sono ancora quelli dei provini? Ma dove andate? Statevi un attimo. Anche se il provino è andato male, qui c'è la vostra seconda occasione. Stavamo parlando di cover anni 60 italianizzate. Ci mettete su un pezzetto subito subito? Emozionare, brava, brava. E se tu lo vorrai, sì, però crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vedere. Iron Man, no, no. Continuo a pensare che non ci fosse bisogno, Iron Man. Sorry. Esiste anche chi ha voluto fortemente imitare lo stile senza comunque prendersi la canzone, senza fare la cover vera e propria. E meno male che se n'è andata virgi, perché questi sembravano proprio. When the night has come. Metteremo su anche noi una cover qui al soppalco di Radio Forte. Virginia ci perdonerà, ma questa ci piace proprio. sappiamo noi. Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate come mai. Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, e se non la sapete voi, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Siamo alla fine. Sei stanco. E non è manco più 21 gennaio, capisci? Già. Abbiamo scavallato al 22 un'altra volta. Usciamo di venerdì mattina invece che giovedì. O mi fai un favore? Torniamo a giovedì? Vogliamo fidelizzare? Devi imparare a farti aiutare. Anche sta avventura ce la siamo tolta, caro Iron Man. Sì. Sei provato? Sono stanco. Io un pochetto. È l'alba, io non lo so. C'è la redazione. Non hai voluto ascoltare. Dici che mi sono comportato male. Dici che li dovevo ascoltare. Sì. Forse hai ragione, amico mio. Lo sai che è così. In 100 celle Avengers siamo tutti uguali. Bravo. Ma alcuni sono più uguali degli altri. Ma cosa dici? Sei impazzito. Sto dicendo che nel 50 è morto pure George Orwell. Ancora. E quindi posso citare La fattoria degli animali. Ancora con i diritti d'autore. E quindi prossima puntata 1984. Intanto citazioni della Fattoria degli animali come se non ci fosse un domani. Ora basta. Ci rimane soltanto da ricordare che se vi siete persi questa puntata la trovate in podcast su fortepenestrino.net/radio. Sì, sì. Che 100 celle Avengers va in onda il giovedì alle 5, ogni due settimane con una puntata nuova, il venerdì a mezzogiorno in replica e la domenica alle 14. È ora di dormire.

Versatile e amabile, che non dice mai